La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia qui in diretta dagli studi della Radio di Milano, sono le 16.31 primi 53 secondi, questo venerdì 16 di ottobre 2015. Allora, da subito vi do appuntamento, per chi volesse potesse, domani mattina la nostra trasmissione diretta alle 10 alle 12, i Conti della Belva, con i compari soliti dei Conti della Belva, quindi Mario Seminari, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Cannavale Maffè, perché avremo molti ospiti, punti di vista diversi, per parlare di tutti i maggiori aspetti, per quanto è possibile farlo senza carte, né numeri in mano della legge di stabilità, appunto della legge di stabilità. Quindi tenteremo di esaminare i maggiori blocchi dovuti ai tweet e agli annunci di ieri del governo, chiedendo a sindacati, partiti, membri del governo, accademici, rappresentanti del Sud, eccetera, eccetera, che cosa hanno capito, cosa si aspettano. E naturalmente chiediamo lì a voi di intervenire anche all'800 24 00 24 in diretta domani per dirci la vostra opinione sulle tantissime cose che si affastellano in questa legge di stabilità comunicata appunto senza testi e senza numeri. Oggi intanto approfondiamo, tra tutte le cose, una che riguarda direttamente la vita di praticamente tutti noi, visto che tutti noi risiedono, operano, vivono in uno degli 8100 comuni italiani. Perché? Perché negli annunci ieri da Palazzo Chigi della legge di stabilità in sintesi e per punti, ben due di questi, devo dire tra i più importanti, riguardano esattamente il rapporto tra governo nazionale e comuni per quello che riguarda le tasse e per quello che riguarda la spesa. Come sapete, tra i tanti incentivi fiscali annunciati nella legge di stabilità coperti in deficit soprattutto, il deficit copre più del 60% da quello che abbiamo capito della manovra e siamo in attesa che l'Unione Europea ci autorizzi un altro 0,2 di PIL di maggior deficit ancora sulla cosiddetta clausola profughi, ma insomma tra i tantissimi il primo che fa molto discutere da parte di un governo di sinistra è l'abrogazione totale della prima casa, i mutasi. E qui la questione è: alla luce dell'esperienza degli anni scorsi di cittadini italiani, di contribuenti, ma lo stesso vale per gli amministratori dei comuni, che come sappiamo gli italiani hanno visto in realtà il prelievo complessivo salire anche quando in teoria scendeva, perché siccome una volta che uno lo fa scendere leva risorse alle già magre finanze locali, di solito il governo ha preferito poi autorizzare i comuni, così facevano loro la figuraccia di fronte a noi contribuenti, di dire vabbè, ma in cambio voi alzate questa aliquota, sovraliquota, eccetera eccetera. Allora la prima domanda diventa: il governo questa volta dice che coprirà integralmente la quota di risorse comunali che viene meno per l'abrogazione i mutasi prima casa. Adesso, qualunque cosa voi pensiate sia giusto o non sia giusto, io penso che sarebbe stato giusto dedicare gli interventi a meno IRAP, ma detto tutto questo, domani spieghiamo il perché, c'è davvero questo impegno annunciato ieri dal governo a coprire integralmente le minori risorse che i comuni incassano su questo, oppure siamo ancora una volta poi in presenza dell'autorizzazione ad alzare altro prelievo locale? Perché questo è esattamente il meccanismo che Renzi lamenta sempre, che ha portato gli italiani in questi anni a risparmiare di più piuttosto che a consumare di più. Perché? Mica perché gli italiani erano scemi, ma perché semplicemente avevano capito che era meglio non fidarsi, perché le tasse comunque aumentavano. Allora questa è la prima domanda. Poi c'è una seconda domanda che riguarda un altro punto della legge di stabilità, sempre attinente ai comuni. Perché l'annuncio è: liberiamo i comuni dal patto di stabilità interno per quello che riguarda le spese di investimento, cioè quei comuni che hanno attivi ma non possono utilizzare risorse all'attivo, ma non possono utilizzarle e quindi per investimenti, perché andrebbero oltre i limiti del patto di stabilità. Allora la domanda che noi facciamo non è tanto rivolta a noi stessi, perché noi non lo sappiamo finché non troviamo scritte le norme, né vi chiedo la vostra opinione, perché anche voi non lo potete sapere cari ascoltatori, però ci siamo peritati di chiedere direttamente a chi rappresenta i comuni per vedere se loro ne sanno qualcosa di più, se loro davvero sono in grado di dirci a tutti quanti noi che non saranno costretti da questa decisione del governo a dover alzare altre imposte ed entrate per equilibrare quello che gli viene meno sui mutasi prima casa. A, B, e se conoscono davvero più o meno precisamente, sempre che non abbiano già il testo, anche la norma che tante volte è promessa, quello di rilassare il patto di stabilità interna, questa volta viene preso come un impegno formale, perché questo riguarderebbe migliaia di comuni italiani che si trovano in queste condizioni di non fare investimenti e quindi per viabilità, illuminazione e così via, pur avendo le risorse a disposizione, quindi senza indebitarsi, perché c'erano i vincoli appunto di allocazione delle risorse connessi al patto di stabilità. Quindi abbiamo per questi due aspetti chiamato appunto rappresentanti dell'ANCI. Allora è con noi il sindaco di Ascoli, che è responsabile finanza locale dell'ANCI, Guido Castelli. Buon pomeriggio a Castelli. Buon pomeriggio a lei, dottore. E il sindaco di Urbino e vicepresidente dell'ANCI, Matteo Ricci. Grazie anche a Ricci di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti, sindaco di Pesaro. Sindaco di Pesaro e non di Urbino, come mi avete indicato qui, e lei ha perfettamente ragione. Allora, comincio con Castelli, e a Castelli chiedo, essendo responsabile finanza locale dell'ANCI, iniziamo con la prima questione, cioè ripiano totale da parte del governo centrale ai comuni delle somme che vengono meno nei bilanci comunali per le quote di pertinenza dei comuni dell'abrogazione IMU TASI prima casa. Voi siete stati coinvolti, avete visto un testo, vi fidate oppure come stanno le cose? Allora, tutto quello che dirò lo consacrerò a San Matteo, nuovo protettore dei sindaci, nel senso che io devo prima vedere per credere, e quindi pur nutrendo la massima fiducia in quel principio della restituzione paro paro che ha utilizzato il Premier Renzi, bisognerà che leggiamo esattamente poi il testo della manovra. Però non ho motivo di ritenere che il Premier voglia, come dire, rimangiarsi una parola che è stata distribuita con tanta enfasi, con tanta precisione. Il vero tema è che... Ci può ricordare per le finanze comunali da IMU TASI prima casa quali erano le rivenienze e le entrate complessive? Di cosa stiamo parlando? Sì, sono 3 miliardi 730 l'IMU TASI prima casa, si parla di 800 milioni di, diciamo, terreni agricoli, sì, e poi c'è una cifra non esattamente quantificabile che sono i cosiddetti imbullonati, che la cifra lì è ballerina perché non esiste una codifica fiscale del concetto di imbullonato, sono un pezzo dei cosiddetti immobili di categoria D. Le stime variano da 300 a 700 milioni, bisognerà introdurre una valutazione di tipo fiscale, proprio una codifica, perché a giugno i conti possono essere fatti. Quindi insomma arriviamo a poco meno di 5 miliardi. Poco meno di 5 miliardi, se poi ci aggiungiamo il famoso fondo compensativo che era quella specie di galleggiante inventato l'anno scorso per far sì che il passaggio dall'IMU alla TASI fosse privo di sofferenze per ciascuno, ci sono altri 500 milioni. Però da questo punto di vista la vera preoccupazione, ma insomma l'affronteremo tecnicamente la cosa, sta proprio nella distribuzione paro paro e precisa per ciascuno degli 8.100 comuni di questa restituzione, perché dal punto di vista macro i soldi ci sono, ci è stato detto e confermato, dal punto di vista poi analitico bisognerà fare in modo che a ciascuno un equique sum sia attribuita esattamente il mancato gettito. Noi non abbiamo visto il testo, ma da questo punto di vista ci sentiamo abbastanza tranquilli. C'è un secondo tema, poi lei lo evocava, quello della patto di stabilità, lì bisognerà stare molto attenti anche a come saranno scritte le norme, perché è vero che il patto di stabilità senz'altro sarà alleggerito, è altrettanto vero che però sarà necessario un intervento normativo su una legge che è quella che poi attua il pareggio di bilancio, quello consacrato nel 2012, no? Con la legge costituzionale 3, che introduce vincoli nuovi e inediti a carico dei comuni che hanno una capacità inibitoria della spesa importante almeno quanto il patto. Quindi da lì, per capire se ci saranno effettivamente, ma sono convinto che non potranno non esserci, degli effetti sostanzialmente positivi per la nostra capacità di investimento, bisognerà capire come organizzeranno le norme. Una cosa la devo dire, c'era anche Matteo Ricci che saluto, al MEF ci parlavano, anzi a Palazzo Chigi ci parlavano di una, diciamo, mole di investimenti da liberare per una somma pari al miliardo. Abbiamo letto 670 milioni, è un po' meno e sarebbe molto meno. Speriamo, diciamo, che ci sia stata una svista però ecco, alla dimensione più importante. Perdoni. Un conto è una norma che svincola per gli investimenti nella generalità dei casi tutte le amministrazioni comunali che si trovano ad avere liquido utilizzabile e sono bloccati dal patto, perché in quel caso la somma sarebbe sicuramente superiore. Altro conto è una norma che però vincola questo allentamento del patto entro una quota. Di che cosa stiamo parlando? Del primo caso o del secondo? stiamo parlando del primo caso, nel senso che questa norma liberatrice di capacità di investimento varrà soprattutto per chi ha degli avanzi che sono liberi e spendibili, o meglio che saranno resi liberi. Che saranno, perché non lo sono oggi. Perché non lo sono, quindi il vero punto è che non varrà per tutti i comuni, ma solo per quelli che ancora dalle recenti spending review hanno, come mi pare che per esempio il comune di Pesaro, ancora in cassa dei soldi che erano, come dire, inopinatamente bloccati dal patto. Quindi non varrà erga omnes no. per tutti. No, no, vale per chi è in quella condizione, però le stime che giravano di sul totale dei comuni italiani, di comuni che si trovavano in quelle condizioni per cifre superiori ai 2-3 miliardi, erano evidentemente infondati, se poi la stima diventa 670 milioni. Io non credo che siano 670 milioni la stima, è ciò che il governo è riuscito a mettere in campo. Io credo però che la slide sia stata, io mi permetto di correggere anche il Premier Renzi, sono veramente un vanaglorioso. Io, insieme alla delegazione ANCI, avevamo sentito parlare complessivamente di una cifra poco inferiore al miliardo. Ci siamo un pochino preoccupati vedendola già scendere. In effetti 670 milioni è inferiore al miliardo, potremmo sul poco essere d'accordo o meno. Comunque Guido Castelli ci dice, il sindaco di Ascoli, vedere per credere. Allora, siccome il sindaco di Pesaro, non di Urbino come erroneamente ho indicato prima, il vicepresidente dell'ANCI Matteo Ricci, indicato anche all'attenzione del PD come un comune virtuoso, sindaco virtuoso e così via, c'è anche un problema di vicinanza politica, per così dire, di consonanza con il Presidente del Consiglio e l'asse, insomma, politico che tiene insieme il governo. Io faccio le stesse due domande a lui, nel senso che, per esempio, quando su alcuni giornali si scrive in questi giorni che parte, o anzi buona parte, della copertura delle somme che vengono meno ai comuni per l'abolizione IMU, TASI, prima casa, viene comunque da la quota che oggi è versata allo Stato sull'IMU di capannoni e alberghi, ma alcuni hanno scritto attenzione che quella quota potrebbe salire. Ecco, a Matteo Ricci, e saremmo quindi in presenza di nuovo di un ripetersi delle cose del passato, cioè di un annuncio di abrogazione di un'imposta e poi a copertura si dice sì, però altri per un pezzo sempre della stessa posta pagano di più, e allora in quel caso ricadremmo in quello che abbiamo già visto, che spinge gli italiani a essere diffidenti e a risparmiare. Matteo Ricci, lei si sente di escludere che questo sia uno dei meccanismi per la copertura dell'abrogazione di mutasi prima casa ai comuni o no? Guardi Giannino, noi per 6 anni abbiamo visto un film che più o meno è stato questo: tagli continui ai comuni e agli enti locali, e governi che magari tagliavano tasse o provavano a tagliare alcune tasse a livello nazionale, con il rischio che poi i comuni fossero costretti a causa dei tagli ad aumentare le tasse locali. Questo è un film che ha visto protagonisti tutti i colori politici che hanno governato questo paese negli ultimi 6 anni. Questa legge di stabilità per la prima volta dice che non solo toglie la tassa sulla prima casa, i modricoli e bullonati, facendo anche un lavoro di semplificazione, perché sulla prima casa abbiamo fatto una confusione negli ultimi anni pazzesca, no? Da l'IMU alla TASI, la TASI prima casa e l'IMU sulla seconda, è un disastro, quindi anche c'è anche un elemento di semplificazione notevole. Ma dice, noi abbiamo avuto insieme a Castelli tutte le rassicurazioni ai tavoli che abbiamo fatto, che verrà compensato integralmente il mancato introito da parte del comune. Questa è una novità molto rilevante, perché non solo vorrà dire che i comuni non aumenteranno le tasse locali perché verranno tolte, ma vorrà dire anche che la compensazione servirà a non tagliare servizi sociali, quindi anche un'azione calibrata sugli ultimi, su quelli che in questi anni hanno subito maggiormente gli effetti della crisi. Poi per 6 anni abbiamo sentito dire governi che volevano allentare il patto di stabilità. Aspetti, prima di andare al patto di stabilità le faccio una domanda, mi dà la risposta poi dopo l'interruzione, perché adesso abbiamo un minuto di informazione sulla circolazione stradale. Ma compensazione, è proprio questo il punto, l'impegno della piena compensazione dei comuni vive, si alimenta, si determina, si realizza con risorse trasferite in egual misura a ciascun comune a seconda di quello che gli viene meno nel bilancio per l'abrogazione di mutasi prima casa, con trasferimenti di risorse da parte dello Stato centrale a quel comune, ipotesi A, che secondo me è l'ipotesi migliore per evitare che il bis di quello che abbiamo visto nel passato, oppure ipotesi B, come le avevo chiesto, nasce questa compensazione dall'aumento o dal trasferimento aumentato di quote oggi di pertinenza statale di altre imposte, perché in quel caso certo è un po' difficile dire che si volta davvero pagina. Allora, domanda, mi rendo conto per chi ascolta, stiamo entrando un po' nel dettaglio, però in definitiva è questo che determina se c'è una differenza su questo impegno rispetto al passato oppure no, perché capite che altrimenti dice abbiamo abolito i mutasi prima casa, benissimo, dopodiché che per coloro che hanno capannoni, alberghi eccetera gli aumenta la quota dello Stato e di lì lo Stato dà la compensazione, vabbè, ho capito, voi direte intanto la generalità dei proprietari non ce l'ha, però per altre categorie ci risiamo. Ecco, a me pare difficile che si trovi l'equivalente di 4 miliardi in questo modo qua, però molti giornali hanno scritto cose che evidentemente venivano dai testi in preparazione. Quindi a questa domanda di Matteo Ricci, a questa domanda mia, Matteo Ricci, la risposta tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.48, primi 55 secondi. Stiamo tentando di capire con i rappresentanti dell'ANCI, quindi coinvolte nella riunione preparatoria della legge di stabilità, se questo punto connesso all'abrogazione dei mutasi prima casa davvero significherà per la prima volta dopo anni che poi non si riequilibra con nuove tasse ciò che viene levato ai comuni che incassavano quota di pertinenza di quelle imposte. E poi c'è il secondo problema, se davvero c'è lo svincolo dei limiti del patto di stabilità per tutti i comuni che hanno somme in attivo che non possono spendere per gli investimenti perché bloccate dal patto di stabilità. Avevo fatto una domanda appunto a Matteo Ricci, cosa significa compensare? Risorse che escono fuori dallo Stato e vanno per la prima volta ai comuni, questo, non quote che salgono di imposte per compensare. No, assolutamente, ma questa è una questione molto chiara, tant'è che chi critica questa manovra dice che lo Stato, cioè il governo, avrebbe dovuto utilizzare questi 5 miliardi per fare altre cose, quindi sono 5 miliardi della legge di stabilità che vengono utilizzati per compensare ai comuni il mancato introito di TASI, IMU, IMU agricola e Bullonati. Sì. Il tema, noi abbiamo chiesto... Lei si sente sicuro, pur non avendo i testi, lei dice c'è un impegno politico, un impegno politico. Al di là delle dichiarazioni politiche che Renzi ha fatto, noi abbiamo fatto due incontri, uno al Ministero dell'Economia e uno a Palazzo Chigi qualche giorno fa. Sì. Questo concetto è stato un elemento chiarissimo nell'accordo ANCI-Governo. L'ANCI non ha dubbi. E sulla seconda questione? Sulla seconda questione invece lo ritengo un grande risultato. Sono stato uno dei sindaci che protagonisti di questa trattativa, perché è chiaro che non varrà per tutti i comuni, vale per quei comuni virtuosi. Sì, sì. In Italia ci sono comuni in disavanzo e comuni in avanzo. Infatti il paradosso era che si frenassero proprio quelli che erano stati... I comuni che hanno avanzo d'amministrazione e hanno cassa usufruiranno di un allentamento notevole del patto che gli consentirà di fare investimenti. Il comune di Pesaro ha un bilancio di 95 milioni complessivamente, siamo arrivati ad avere 39 milioni di avanzo d'amministrazione. Di questo avanzo circa 29 sono investimenti. Sono sicuro che non mi libererà tutti i 29 milioni, ma sicuramente alcuni milioni di quei 29 verranno liberati e io come altri comuni virtuosi, ecco, spieghi questo agli ascoltatori. Spieghi questo agli ascoltatori. Perché una volta che si decide di consentire ai comuni virtuosi di utilizzare le somme in attivo per gli investimenti, a quel punto lei dice io sono arrivato a 29 su 95 di bilancio, però di sicuro non mi autorizzeranno per tutti. Perché? Perché adesso rischiamo di entrare in tecnicismi, però dall'avanzo amministrazione vincolato si deve togliere l'avanzo prodotto da multa. Ok. E in più deve avere cassa, cioè quindi deve avere cassa, cioè le entrate e le uscite. Perfetto. Non deve essere di cassa. Sono meccanismi tecnici. Però stiamo parlando di casse, non di competenze. Mi è chiaro e spero che sia chiaro anche a un po' di ascoltatori, perché si trattava di capire, questo è un criterio trasparente per così dire, che non fossero criteri discrezionali dovuti oltre una certa somma, lo Stato dice no, guarda, sarebbe bello ma io non ti copro, però invece quello è un criterio contabile preciso, quello che ci ha detto, quindi lo capisco che funzioni così. Ecco, e su questo punto anche lì c'è un impegno politico. Insomma, voi le avrete viste queste norme in preparazione? Noi abbiamo ragionato sugli obiettivi, gli obiettivi sono chiarissimi. Il costo per lo Stato in verità non è chiarissimo, perché essendo uno dei criteri della cassa, casse dipende da come sono messi i comuni, non ha nessun tipo di costo per il bilancio dello Stato. Esattamente. Adesso anche noi siamo in attesa di vedere le norme, però l'obiettivo mi sembra chiaro. È chiaro che non dobbiamo illudere i comuni che non hanno avanzo, nessun effetto positivo. Certamente. I comuni che hanno avanzo di amministrazione avranno effetti positivi, potranno fare più lavori sulle strade, sulle scuole, sull'arredo urbano. Questo è utile alla qualità della vita delle città, è un elemento essenziale della legge di stabilità, perché significa intercettare meglio la ripresa e spingere gli investimenti non solo privati, ma anche questo non solo, ma soprattutto è un elemento per il futuro, perché in questi anni l'effetto negativo, oltre al fatto di far diminuire ulteriormente la quota per investimenti, ricordo che noi siamo a meno 27% tra investimenti pubblici e privati come totale rispetto al 2008, il problema era che era un potentissimo disincentivo a risparmiare i soldi, perché a quel punto tanto vale spendere in spesa corrente fino al massimo, se invece chi faceva il contrario non poteva utilizzare per investimenti. Quindi il problema è di cambiare, non solo per aiutare subito la ripresa, ma per imprimere un incentivo positivo al comportamento degli amministratori. Sentiamoci, abbiamo qualche ascoltatore, chiama Vito da Parma. Vito, prego. Ah, buongiorno Giannino. Buongiorno. Io sono un rappresentante, faccio l'agente di commercio. Sì. A me questa cosa qua mi fa ridere, sa perché? Dica. Allora, noi rappresentanti possiamo scaricare una macchina di l'80% di 25.000 euro, cioè io non posso, anche se guadagno 300.000 euro, non posso comprarmi una macchina di 50.000 euro, che è un assurdo. Cioè, allora voglio dire, invece di fare il 140% che mi fa ridere, ma perché non togliamo tutti questi pigli, no? Cioè lei sta parlando in questo momento di una delle altre norme, che è il potenziamento molto forte degli incentivi agli investimenti lordi delle imprese, lordi, non netti aggiuntivi, con il passaggio tra il 100 e il 140% degli investimenti in beni strumentali. Di questo ne parliamo domani mattina, però a me interessava solo che sentiste i rappresentanti dell'ANCI, cioè Guido Castelli, sindaco di Ascoli, e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che si sentono ragionevolmente sicuri. L'abrogazione di Muntasi, prima casa, non viene equilibrata con nuove tasse, e per i comuni virtuosi finalmente dovrebbe essere svincolato il patto di stabilità per consentire loro di utilizzare gli avanzi per gli investimenti. Naturalmente, vedere per credere, dice Guido Castelli, io un po' aderisco a questa tesi, però speriamo di avere presto i testi di questa legge di stabilità. Appuntamento domani mattina dalle 10 alle 12 con i conti della Belva, non mancate!